Focus Economia. Le 17, 7 minuti 48 secondi. Buonasera gentili ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia da Simone Spezia. È una giornata nella quale torneremo naturalmente a parlare di Grecia, perché oggi dalla Grecia è arrivata ufficialmente la richiesta di poter accedere al meccanismo di sostegno, quello congiunto tra Europa e Fondo Monetario Internazionale. Vedremo poi di capire come questo meccanismo potrà avere attuazione, quantomeno nel breve termine. Nel frattempo i mercati reagiscono piuttosto bene, fa bene Atene ma fa bene anche il resto d'Europa. A Milano il FTSE All Share guadagna lo 0,45%, il FTSE MIB lo 0,41%. Meno bene va l'America, nonostante un paio di dati macroeconomici positivi, ve li daremo tra un attimo. Il Dow Jones guadagna lo 0,04%, lo Standard & Poor's 500 in calo dello 0,15%. Parleremo di questo, parleremo ancora di economia internazionale, perché si sono aperti i lavori del G20, dei ministri economici e finanziari e dei governatori delle banche centrali a Washington. Si sono aperti i lavori, ma domina su tutto naturalmente la proposta di riforma finanziaria del presidente americano Barack Obama, della quale ieri è tornato a ribadire i punti principali. Faremo il punto anche su questo argomento. Parleremo di banche popolari, perché si apre un fine settimana piuttosto intenso sul fronte delle assemblee che coinvolgono tantissime persone. Ne abbiamo già parlato in Salvadanaio questa mattina, torneremo ad accennarne oggi, e poi parleremo anche, a proposito di economia italiana, di vendite al dettaglio, vendite che sono, e quindi consumi sostanzialmente, che sono ancora in crescita, e sono ancora in calo quelli degli alimentari. Prima di tutto le notizie in breve di questa giornata. Iniziando dal petrolio, che ha aperto i primi scambi a New York in calo dello 0,7%, 83,14 dollari al barile. E a proposito di petrolio e di compagnie petrolifere, sono stati diffusi i dati della trimestrale dell'Eni. Il primo trimestre chiude con un utile netto pari a 1,82 miliardi di euro. Si registra una produzione di idrocarburi in crescita del 2,1% a 1,816 milioni di barili al giorno, grazie agli incrementi registrati in Nigeria, Congo e Stati Uniti. E poi, più sul fronte di quel che riguarda il mercato, sempre dall'Eni, non si esclude la possibilità di prendere decisioni sul dividendo nel 2010, lo dice il direttore finanziario Alessandro Bernini. Attualmente ha comunque ricordato il dividendo previsto è di un euro, così come annunciato a marzo scorso. E poi ancora, il consiglio di amministrazione ha deliberato l'emissione di uno o più prestiti obbligazionari per un ammontare complessivo fino a 3 miliardi di euro da immettersi in una più tranche entro il 23 aprile 2011. Questo ha avuto tra l'altro un impatto abbastanza positivo sulla quotazione del titolo in borsa. Tutto questo, cioè i dati della trimestrale, guadagna un più 1,20%, ne parleremo più avanti. A proposito di crisi globale, sono stati diffusi i dati dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca Mondiale. Emerge che ci sono 53 milioni di poveri in più a causa appunto della crisi. La percentuale di persone in estrema povertà nel mondo sarà pari al 15%. Allora, dicevamo dei dati dall'America che sono positivi, ma che evidentemente non sono piaciuti un granché al mercato, visto che il Dow Jones guadagna appena lo 0,10%. Gli ordini di beni durevoli in America hanno segnato un calo mensile dell'1,3%, ma al netto del settore trasporti hanno registrato un balzo del 2,8%, il maggiore dal 2007, ossia dai tempi pre-crisi. E ancora, dato che la crisi ha colpito prevalentemente il settore immobiliare, è positivo anche il dato sulle vendite di case nuove negli Stati Uniti, che hanno segnato il maggior rialzo dall'aprile del 1963. L'indice è salito del 27%. Dati anche per quanto riguarda l'Europa, gli ordini all'industria in ripresa a febbraio nella zona euro con un aumento dell'1,5% rispetto al mese precedente, quando si era registrata una diminuzione dell'1,6%. La cosa interessante da notare è che a trainare questa ripresa è stata l'Italia, dove gli ordini all'industria in febbraio hanno subito un'impennata del 3,7%, segno meno invece in Francia, -1,3%, mentre la Germania fa registrare un leggero aumento, +0,4%. E poi i dati sulle vendite al dettaglio diffusi dall'Istat, che poi approfondiremo più avanti, sono diminuite dello 0,4% su base annua, e questo era nelle attese, mentre hanno segnato un incremento dello 0,1% su base mensile. Vendite di prodotti alimentari a febbraio hanno registrato una flessione dell'1,3% rispetto a febbraio 2009, anche se sembra cambiare lievemente il trend su base mensile, perché si registra un aumento dello 0,3% rispetto a gennaio 2010. Aumentano le vendite nella grande distribuzione e calano dell'1,5% quella nei negozi, nelle imprese operanti su piccole superfici. Ci sono poi i dati forniti da Standard & Poor's, che ha diffuso il suo rapporto sulle banche. Vede 59 miliardi di perdite sui crediti in Italia nel 2009-2011 per il sistema bancario. E poi dice ancora Standard & Poor's, il sistema bancario sarà profittevole nel corso del 2010-2011. Questo è quello che prevedono gli analisti. Le perdite su crediti potranno assorbire gran parte dell'utile operativo. Si aggiunge che alcune banche italiane nel corso del biennio potranno non essere profittevoli. E ancora Standard & Poor's ha tagliato i rating di Intesa San Paolo e Mediobanca, mentre ha confermato quelli di Unicredit con un outlook stabile. Anche questo lo vedremo nei mercati, vedremo come sono andati i singoli titoli. Ancora un breve ritorno su Fiat, perché oggi l'amministratore delegato del Lingotto Sergio Marchionne ha incontrato il presidente della regione Piemonte Roberto Cota. Ribadisce che il 2010 sarà un anno duro in Italia, un meno per 30% di volumi, questa è la previsione di Marchionne. E ancora riguardo al tema del cosiddetto piano A o eventuale piano B, insomma raddoppiare la produzione in Italia oppure no, dice: io nell'impegno l'ho preso per il piano A, solo quello mi interessa, poi se qualcuno si vuole preoccupare del progetto B lo faccia, dice Marchionne. E ancora sulla flessibilità, quella richiesta ai sindacati per l'attuazione di questo raddoppio della produzione italiana: la flessibilità non è un concetto che si applica solo a Pomigliano ma a tutti gli stabilimenti, dice Marchionne. E poi in specifico, visto incontrare il presidente della regione Piemonte, in questo modo si è espresso su Mirafiori. Lo stabilimento di Mirafiori verrà più potenziato, quindi farà molte più vetture di quante ne ha fatte storicamente, e questo ovviamente si attirerà un numero di dipendenti superiore a quello che abbiamo adesso. E poi la cosa da vedersi, di cui abbiamo parlato con il Presidente, qui chiaramente lo sviluppo tecnologico per i motori di ibridi eccetera, quindi c'è un grandissimo spazio per andare avanti qui. Così Marchionne, questa dunque invece la valutazione del presidente del Piemonte, Roberto Cota. Parlando con il dottor Marchionne della situazione della Fiat, di tutti i dipendenti del gruppo Fiat, penso che in 5 anni i posti di lavoro relativi al gruppo Fiat sul territorio della regione Piemonte possano aumentare. E io di questo sono molto contento e ovviamente do il pieno appoggio a queste scelte. Da segnalare sempre sul fronte Fiat, che ha comunicato il ricorso a 2 settimane di cassa integrazione per gli operai di Termini Imerese a partire dal 20 maggio, con rientro in fabbrica il 7 giugno. E veniamo al primo tema di questa giornata, ossia la Grecia. Non prima, naturalmente, di avervi ricordato il nostro numero di SMS 349-238-6666, appunto per i vostri numeri. Allora, il premier greco Giorgio Papandreou ha annunciato il ricorso al meccanismo di sostegno che dovrebbe arrivare da Europa e Fondo Monetario Internazionale. Il piano prevede un prestito di 45 miliardi di euro ad un tasso di interesse del 5%. Iniziamo questa pagina, apriamo questa pagina salutando Vittorio Darold, inviato del Sole 24 Ore ad Atene, che là si trova in questo momento. Vittorio, di nuovo buonasera. Buonasera a voi. Allora, dunque, dopo le nuove tensioni sui mercati di ieri, insomma, pare che ci siamo, Papandreou si è deciso. Sì, esattamente, Papandreou ha scelto l'isola più lontana da Atene, l'isola di Castellorizzo, l'isola del Dodecaneso, dove venne girato il film Mediterraneo, e da quella zona, per dare proprio il senso dell'unità di tutto il paese che è chiamato a questo momento di grande sforzo, perché ci sarà, ha detto, una odissea, cioè dovremo come Ulisse tornare ad Itaca attraverso appunto una difficile marcia, che si tratta appunto di riforme strutturali, di ritorno a conti sostenibili e a tutta una serie di misure previdenziali e fiscali che il governo sta preparando. E a quel punto da lì ha detto che per ritrovare la credibilità della classe politica greca bisogna appunto chiedere aiuto alla UE e al Fondo Monetario Internazionale. Beh, interessante anche l'uso del poema epico da parte di Papandreou. Insomma, adesso conosciamo la strada per Itaca, dice all'ascoltatore che ci chiede cosa succede a Banca Intesa. Con calma ci arriveremo, comunque in calo di circa lo 0,7%. Poi affronteremo l'argomento borsa nello spazio dedicato, come sempre. Nel frattempo i mercati a tutto questo sembrano reagire bene, virano a ribasso i rendimenti dei titoli di Stato greci, i rendimenti sui bond biennali sono diminuiti di 65 punti base al 9,98%, comunque insomma sempre una bella cifra, dopo essere balzati all'11,74% nei giorni scorsi. Insomma, le cose sembrano migliorare. Saluto intanto il professor Mario De Aglio, che ci ha raggiunto al telefono. Professore, buonasera. Buonasera a voi. È docente di economia internazionale all'Università di Torino ed editorialista della Stampa. Allora, professore, io lo vorrei sollecitare subito su quello che continua ad essere, a quanto pare, il tema, perché nel primo pomeriggio di oggi è arrivata una nuova dichiarazione da un membro importante della Banca Centrale Europea, ossia Axel Weber, che parlando a Washington a margine del G20, è membro del consiglio direttivo della BCE, lo ricordiamo, dice: la crisi greca non è un problema per l'euro, ma esiste il rischio di un contagio verso altri paesi. È la domanda che ci poniamo più o meno quotidianamente, perché la cosa che ci interessa più strettamente, insomma, abbiamo detto spesso che la dimensione della Grecia, proprio per il peso del prodotto interno lordo greco sull'economia europea, non può essere fondamentale, non può essere destabilizzante. È vero però che questo rischio contagio, stando a quel che dice Weber, c'è. Lei come la vede? Ma intanto trovo che è irresponsabile da parte di una persona nella posizione di Weber di fare dichiarazioni allarmistiche di questo genere. Se anche il rischio per caso non esiste, o se è minimo, tutti gli operatori guarderanno con maggiore interesse e metteranno un trattino in più sul fatto che la crisi può estendersi ad altri paesi. È quasi una dichiarazione di impotenza da parte della Banca Centrale Europea ed è così un segno del fatto che l'Europa è senza una linea, e quindi anche quella di oggi è un tampone che abbiamo messo lì, lo mettiamo malvolentieri, soprattutto i tedeschi lo mettono molto malvolentieri dopo aver detto che mai e poi mai avrebbero fatto una cosa del genere. In sostanza ci vedo la conferma di un'Europa che va alla deriva, e andando alla deriva rischia di affondare tante navi, quelle dei paesi che ne fanno parte, ma anche il sistema valutario internazionale, che non so quanto potrà reggere a pressioni di questo tipo. Da un lato abbiamo gli americani con le frodi delle grandi banche, dall'altra parte abbiamo qui la sagra dell'incompetenza e della mancanza di coordinamento, e tra tutte e due non c'è molto da stare allegri. Bene, mi sembra molto netta la sua posizione, professore. Tra poco sentiremo anche un'altra posizione interessante, quella di Jacques Attali, però il professore ci parlava della posizione dei tedeschi. Oggi, Vittorio, c'è stata una telefonata tra Angela Merkel e Papandreou. Da quel che abbiamo capito, da quel che abbiamo visto dalle agenzie, però illuminaci tu, non sembra che le cose siano andate proprio liscissime. No, il problema è, sembra che tra i due non ci sia assolutamente feeling, ma il vero problema è appunto che la Merkel abbia posto il problema del rischio euro, cioè la Germania sarebbe, secondo indiscrezione, pronta ad aiutare la Grecia solo se la moneta unica è a rischio, è sotto scacco. E secondo i greci, naturalmente, questa è la posizione, questo è già avvenuto con il calo sui mercati dell'euro, mentre la Merkel potrebbe in qualche modo avere un'opinione diversa, questo sempre per spingere Atene ad avere una maggiore forza nei confronti appunto delle riforme interne che per anni sono state rinviate, perché qui questo è il vero punto della questione. Atene in qualche modo è sotto commissariamento da questo momento, perché il fondo controllerà appunto il deficit, che come sapete è cresciuto ancora dal 12,7 al 13,6, ma ancora non si sa se possa aumentare. E da anni la Grecia è entrata appunto nell'euro guadagnando sui tassi, perché i tassi sono naturalmente scesi, ma di tutto questo gruzzolo che naturalmente ha guadagnato semplicemente entrando nell'unione monetaria non ha messo a frutto quasi nulla, anzi ha dissipato, ha appunto aumentato i consumi, ma non ha fatto quelle investimenti che avrebbe potuto fare per restare competitiva. Quindi oggi qui ad Atene in qualche modo si celebra il fallimento di 10 anni di politiche precedenti ed è il primo salvataggio dell'Eurozona. Ecco, non c'è da esserne fieri, evidentemente. Allora, proprio sull'Europa, che è l'altro tema che sollevava il professor De Aglio, sul ruolo dell'Europa, sulla tenuta della moneta unica, sulla tenuta valutaria internazionale, e quindi non propriamente sulla Grecia, ma è un tema che tocca anche la questione greca. Ieri ha parlato l'economista francese Jacques Attali a Rovereto in occasione del suo intervento al Festival Città Impresa. In questo passaggio Attali è molto critico verso l'Europa, poco unita e non coordinata nel affrontare la crisi, e fa anche una previsione sulla moneta unica. Sentiamo. Faut bien voir qu'il y a un risque très global de rupture, de fermeture. Esiste un rischio a livello globale di rottura, di chiusura. Per esempio, io penso che tra 5 anni l'euro probabilmente sparirà. Ripeto, tra 5 anni l'euro è probabile che sparisca. E la ragione sta nel fatto che non siamo capaci di mettere in atto le strutture forti che permettano di far progredire l'Unione Europea. Senza progresso l'Europa è come una bicicletta, se non si pedala si cade. Attualmente il mondo si può dividere in 2, 3, al massimo 4 grandi aree. C'è l'area americana, cinese, indiana e europea. Ce ne sono altre, anch'esse importanti, come il Brasile e la Russia. Se consideriamo queste zone, una sola non ha grandi poteri a livello globale, ed è l'Europa. Basta guardare le reazioni che ci sono state alla crisi. Ogni area ha reagito, anche se in maniera differente. Per esempio l'America e la Cina hanno subito approntato delle misure importanti, mentre in Europa non si è fatto nulla di coerente. Qualcuno ha agito con piccole cose, ma comunque per conto suo. Quindi credo che non solo si debba rompere il meccanismo di sovrastrutture locali, ma occorre anche rafforzare assolutamente con urgenza il sistema delle autorità europee. Rafforzare assolutamente, in modo urgente, le autorità europee. Bene, una tendenza alla scarsa unità che Attali intravede più in generale, come avete sentito, nella strategia con la quale l'Europa ha fronteggiato la crisi, ma che è stata particolarmente evidente per quanto riguarda la Grecia. Professor De Aglio, queste parole di Attali le interpreta come una valutazione o come una provocazione? Insomma, l'idea che entro 5 anni l'euro svanisca. Interpreto al 75% come una valutazione, non posso che essere d'accordo. È una provocazione perché manca una piccola parte, e cioè che se l'euro svanisce probabilmente ci sarà un euro 2 che riguarderà un numero minore di paesi. Non vedo per esempio Francia e Germania sciogliere la loro unione monetaria. E credo che attorno al nucleo franco-tedesco si possono aggregare sicuramente i paesi del Benelux e l'Italia, se ce la farà col suo deficit. Adesso ritorneremo più specificatamente sulla Grecia, lo faccio innanzitutto proprio con il nostro Vittorio Darold, chiedendogli quali sono le ipotesi in campo a questo punto, perché leggo qua ancora dalle agenzie un altro membro del consiglio direttivo della BCE, Evald Novotny, dice che le discussioni sugli aiuti alla Grecia saranno completate in fretta e per l'attivazione dei prestiti è questione di settimane. Forse però ci vogliono giorni e quindi bisogna trovare qualche meccanismo. Che cosa si sta studiando, Vittorio? Sì, perché qui la questione è che il 19 maggio c'è una grossa asta che appunto va in scadenza e per circa 11,3 miliardi tra redemption, quindi riscadenze appunto di titoli e cedole, quindi pagamento di interessi. Di questi 11,3 miliardi la Grecia in questo momento ha bisogno, altrimenti sarebbe appunto il default. Ma come si fa a questo punto? Perché bisogna attendere i soldi che i governi europei devono decidere attraverso anche passaggi parlamentari, quindi la questione è piuttosto urgente. Allora si sta probabilmente ipotizzando, ma qui stiamo proprio ancora nell'ordine come dire, delle ipotesi, di fare un cosiddetto treasury facility, quindi un anticipo di cassa. Chi potrebbe farlo? Il fondo monetario o la stessa BCE, garantita da questo, dal fatto che appunto gli stati europei stanno per far arrivare i soldi. Come sapete, la Banca Centrale Europea, secondo il trattato di Maastricht, non può dare prestiti agli stati, perché questo sarebbe appunto è vietato, e quindi dovrebbe farlo semplicemente come un anticipo garantito dal fatto che politicamente gli stati faranno dei prestiti bilaterali. Come vedete, l'Europa sta veramente inventandosi delle nuove procedure in corso d'opera, ma la crisi, come spesso avviene, non attende, non aspetta, e quindi qui la situazione è abbastanza ancora incerta, ecco perché il mercato parla anche magari di ristrutturazione del debito. Insomma, tutte le ipotesi sono ancora sul, almeno nel medio termine, sono ancora tutte aperte. Ecco, sembra un pochino che si navighi a vista. Professor De Aglio, ci sembra che la crisi greca abbia anche messo a nudo, al di là della scarsa unità politica dell'Europa, anche una carenza di meccanismi di governance dell'Europa, e il caso di questi 11 miliardi di quali la Grecia ha bisogno subito lo palesa, ecco. Assolutamente sì, teniamo conto che l'anticipazione di cassa che eventualmente la BCE farebbe alla Grecia è ai limiti della violazione del suo statuto, cioè la BCE non può per statuto prestare soldi ai governi, quindi glieli dà così, fa finta di non darglieli, glieli dà lo stesso per pochi giorni, insomma sono veramente quelle soluzioni deboli. Quindi c'è lì un difetto di governance, lo statuto della Banca Centrale dovrà essere rivisto. Ma più in generale, insomma, noi siamo riusciti a fare una specie di aborto di Ministero degli Esteri europeo di cui non si sente mai parlare, ma dobbiamo invece fare, non c'è purtroppo in quell'abbozzo di Costituzione che è stato approvato, non c'è un Ministero dell'Economia europeo, invece quello di cui l'Europa ha bisogno è qualcuno che faccia il dialogo con la BCE e che al tempo stesso sia un soggetto fiscale, quindi ci deve essere un'imposizione europea che finanzia a sua volta dei progetti europei in tutti i paesi. O facciamo questo passo che implica una perdita di sovranità da parte dei governi, oppure non ce la caviamo in questo tempesta. Sembra però, professore, che nonostante la crisi greca e la crisi finanziaria, la volontà politica su questo sia piuttosto assente. La volontà politica è prossima allo zero, perché siamo tutti presi da problemi momentanei e locali. Secondo me l'unico segno di un minimo di vivacità è venuto dalla crisi del vulcano islandese, perché per la prima volta abbiamo avuto governi mettersi d'accordo tra di loro con le loro compagnie aeree, dare uno schiaffo a un'autorità di controllo inetta come è stato Eurocontrol, far viaggiare lo stesso gli aerei in pratica creare un coordinamento europeo effettivo invece di uno fittizio. Avremo bisogno di un'eruzione all'anno più o meno. forse anche una al mese. Grazie dunque al professor Mario De Aglio per essere stato con noi e grazie anche a Vittorio Daroldi, inviato del Sole 24 Ore ad Atene, che ci hanno aiutato anche oggi, ci ha aiutato anche oggi a chiarire un pochino la situazione di quel che sta succedendo in Grecia. Ci ritroviamo subito tra un attimo, tra pochi minuti, per parlare naturalmente di borsa. Le 17:37 minuti 6 secondi è il momento della borsa. Andrea Fontana, Radio Cori, il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, prima di tutto un commento generale. La giornata mi sembra sostanzialmente positiva, solo come segnalazione, perché abbiamo parlato di una ripresa della borsa di Atene, in realtà ha chiuso in lieve calo dello 0,16%. A Milano invece tutto ok, no? Sì, certamente la richiesta di aiuti al Fondo Monetario e all'Unione Europea attivata appunto dalla Grecia arrivata alla Grecia questa mattina ha fatto tirare, diciamo così, un sospiro di sollievo, anche se contenuto, alle borse continentali dopo una giornata sotto pressione come quella di ieri. In linea di massima Francoforte è stata quella più brillante, anche perché favorita da un indice IFO, cioè quello che segnala la fiducia delle imprese tedesche, che è stato superiore alle attese nel mese di aprile, quindi Francoforte ha guadagnato circa un punto e mezzo. Più timide le altre borse, ma comunque positive, spinte in particolare dal settore delle costruzioni, ma anche dal settore dell'automobile. Ecco, a questo proposito Buzzi Unicem chiude un rialzo del 5,18%, è sicuramente tra i titoli migliori del listino. Partirei con te però dalle banche, perché oggi è stato diffuso il rapporto di Standard & Poor's sugli istituti di credito italiani e non ci sono buone notizie, se non erro, in particolare per Intesa San Paolo. Sì, l'agenzia di rating statunitense ha rivisto al ribasso appunto la valutazione, quindi il voto diciamo sulla situazione del credito di Intesa e di Mediobanca in particolare. Infatti Intesa è stata per lunghi tratti insomma la banca un po' più sotto pressione, che ha viaggiato in controtendenza, ha finito per perdere lo 0,6%, mentre Mediobanca si è tenuta sostanzialmente vicina alla parità. Confermato il rating per la gran parte degli altri istituti di credito, anche se va sottolineato come l'agenzia di rating ha espresso un outlook negativo, quindi una visione di possibile peggioramento per quanto riguarda il Banco Popolare, esprimendo i dubbi appunto sulla situazione patrimoniale dell'istituto e anche ancora una volta sulla questione Italease, la patata bollente che insomma un po' il Banco Popolare deve rimettere a posto. Ecco perché il Banco Popolare è stata la peggiore delle banche sul FTSE MIB, ha perso quasi lo 0,6%. Tra un attimo verremo ad Eni ed STM e però prima vorrei sentire di questa prestazione a dir poco frizzante di Bulgari, un guadagno di quasi 7 punti percentuali. Andrea, come mai? Innanzitutto bisogna dire che oggi è stato molto, molto ben comperato l'intero settore del lusso, non solo in Italia, dove oltre a Bulgari anche Luxottica ad esempio si è ben comportata, ma anche Geox salita di oltre 3 punti percentuali, ma anche sugli altri listini, ad esempio quello svizzero dove Richemont e Swatch Group si sono ben comportate con delle ottime performance. È la seconda seduta consecutiva in cui Bulgari sale in maniera convinta dopo le parole espresse dall'amministratore delegato Francesco Trapani che diciamo ieri ha manifestato forte ottimismo sul l'andamento del primo trimestre, parlando di un fatturato con un più 8-9% in gennaio e febbraio e in un marzo che è stato anche migliore. Quindi in attesa dell'ufficialità dei dati di Bulgari del primo trimestre, che arriveranno all'inizio di maggio, il titolo è stato molto ben comperato, ha guadagnato quasi il 7%. Allora, si diceva del settore delle costruzioni, citavamo Buzzi Unicem, un più 5,18%, da segnalare c'è anche Impregilo un più 3,38%, Italcementi un più 2,93%, di Geux ci dicevi, Luxottica un guadagno del 2,72%, Fiat, e ci parlavi del settore auto, Fiat un guadagno del 2,72%, Exor del 2,43%. Andrei adesso in fondo al listino, a partire da ST Microelectronics, un calo di oltre 5 punti percentuali, come mai? Oggi ST ha diffuso i risultati del primo trimestre, primo trimestre 2010, che nonostante un ritorno in utile per 57 milioni di dollari ha un po' deluso quelle che erano le attese del mercato, e quindi gli investitori hanno deciso di prendere beneficio sul titolo. Ricordiamo che però all'inizio di settimana, nelle prime due sedute, ST Microelectronics si era ben comportata per effetto della decisione di raddoppiare il dividendo distribuito agli azionisti rispetto all'esercizio precedente, e questo quindi la performance di oggi va spiegata sia con i conti, su cui peraltro ha pesato anche la performance di Ericsson per quanto riguarda il settore tecnologico, e sia con le prese di beneficio rispetto alle performance fatte segnare inizio settimana. Allora, Ansaldo fa segnare un calo dell'1,85%, oggi sono stati diffusi i dati di bilancio, si parla di un utile netto consolidato in aumento del 13,1% e poi distribuzione di un dividendo di 0,31 euro per ogni azione. Come mai questo calo, Andrea? Certamente diciamo la performance di Ansaldo anche lì ha un po' deluso il mercato, nel senso che comunque la performance dell'utile netto ha avuto il peso di minori proventi finanziari netti, come segnalato nel comunicato della società. È vero che l'amministratore delegato ha confermato alla luce del primo trimestre i target 2010, ma diciamo così, un'indicazione sui conti non troppo soddisfacente per il mercato, una giornata comunque incerta complessivamente per il listino, ha portato appunto a penalizzare questo titolo. Infine andiamo su Eni, poi vi daremo anche l'andamento degli altri titoli, ci chiedete di Unicredit, Monte dei Paschi, ci arriveremo. Per quanto riguarda Eni abbiamo la trimestrale un più 3,6% per quanto riguarda l'utile, a 1,82 miliardi, sì, con una crescita del 3,6%, come si diceva. Non sono escluse decisioni sul dividendo, a quanto ha detto il direttore finanziario Alessandro Bernini. Attualmente il dividendo previsto è di un euro, così come annunciato a marzo scorso, ha detto ancora Bernini. E poi la delibera di un'emissione di bond per 3 miliardi di euro entro aprile 2011. Infine l'amministratore delegato Paolo Scaroni, che dice: solidi risultati operativi e finanziari in un contesto di mercato ancora difficile. In tutto ciò Eni si è comportata abbastanza bene oggi? Sì, certamente Eni oggi si è comportata bene, meglio del mercato, quindi se il FTSE MIB ha chiuso a più 0,5, Eni ha chiuso a più 0,9%, tutte le indicazioni che tu davi vanno in una direzione positiva, per cui il mercato, pur appunto non scommettendo su Eni al pari di altri settori come quelli che abbiamo elencato precedentemente, oggi ha premiato certamente il titolo del gruppo petrolifero, penalizzando invece Snam Rete Gas, che sempre appartiene al gruppo, la controllata di Eni, che ha perso l'1,6%. Grazie dunque ad Andrea Fontana di Radio Coro Il Sole 24 Ore e ai colleghi di Radio Coro Il Sole 24 Ore anche per oggi. Buonasera. Grazie a voi, buonasera. Allora, diamo un quadro, come si diceva, dei restanti titoli. Saipem già si accennava, un più 2,28% oggi. Bene Autogrill più 2,13%, Lottomatica più 2,10%, Parmalat più 2,09%, Finmeccanica più 1,90%, Prismian più 1,30%, così come Campari, un guadagno dell'1,20% per Telecom Italia e per Tenaris. Bene Mediaset più 1,07%, CIR più 0,95%, Eni si è detto un più 0,90%, UBI Banca più 0,85%, Unicredit un guadagno guadagno dello 0,47%, fondiari assai più 0,37%, Unipol altrettanto, generali più 0,24%, Mediobanca alla fine positiva più 0,20% nonostante giudizio negativo, come si diceva, di Standard & Poor's, Enel più 0,18%, Mediolanum più 0,13%, la Popolare di Milano più 0,05%, Terna in calo dello 0,08%, Atlantia dello 0,12%, Pirelli dello 0,34%, il Monte dei Paschi scende dello 0,35%, A2A di mezzo punto percentuale, Azimut dello 0,60%, così come Intesa, Banco Popolare giù dello 0,68%, Snam, Rete Gas infine dell'1,61%, di Ansaldo ed ST vi abbiamo già detto meno 1,85% e meno 5,19% rispettivamente, l'euro che quota 1,33,59 contro dollaro. La viabilità, poi parleremo di banche popolari. 17:48 minuti e 7 secondi, parliamo dunque di banche popolari. E perché ne parliamo? Perché è la settimana delle assemblee, ci sono migliaia di persone che si stanno muovendo appunto verso le sedi dove si svolgono queste assemblee, sedi spesso molto grandi perché insomma sono circa 60.000 i voti in arrivo al netto delle deleghe, secondo quel che riporta, che riporterà domani Plus 24 in edicola. Con noi in studio il responsabile di Plus 24, Marco Liera. Buonasera Marco. Buonasera Simone a tutti i radioascoltatori. Allora, scene in realtà non solamente italiane ma molto tipicamente italiane, racconterete domani anche qualche bella storia, ci sembra di capire. Queste assemblee sono piene di belle storie, sono un esempio di come il territorio riesce a partecipare alla gestione delle proprie banche. Allora, sicuramente ci sono degli elementi di criticità, come si è visto in passato, ci sono delle popolari, ricordiamo solo la Lodi, che hanno fatto una brutta fine. Però è anche vero che questo modello delle banche popolari, in occasione della grande crisi, ha saputo difendere di più gli interessi di clienti e, perché no, di dipendenti anche, soprattutto quando i dipendenti hanno una rappresentanza diretta in assemblea, in quanto si tratta di dipendenti soci. Quindi sicuramente ci sono delle criticità che anche noi mettiamo in evidenza, ma c'è un modello di democrazia azionaria che ha una sua unicità e che rappresenta un importante elemento di differenziazione in una finanza globale in cui le grandi istituzioni, cito Lehman Brothers, Goldman Sachs o le Citigroup di questo mondo, tendono a muoversi in modo terribilmente omogeneo, pericolosamente omogeneo, a fare tutte le stesse cose. Allora, le banche popolari in Italia si muovono in una direzione diversa. Ricordiamo tra l'altro che ci sono delle banche popolari che non sono quotate in borsa. In passato per questo erano un po' vilipese, e ora invece si vede che il fatto di non essere quotate, per esempio, ha risparmiato ai loro azionisti tante speculazioni e la crisi dei mutui subprime, con il conseguente deprezzamento delle azioni che ha riguardato praticamente le azioni di tutte le banche quotate in giro per il mondo. Beh, una sorta di recupero del passato, spesso, e non solo da questi microfoni, non solo dai microfoni di Focus Economia, ma anche nei nostri giornali radio e non solo, abbiamo parlato delle grandi difficoltà degli imprenditori ad ottenere credito presso le banche, perché spesso si ritrovano con un istituto di fronte, un istituto impersonale. Allora, è vero che c'è Basilea 2 e quindi sono tutti costretti a determinati criteri di concessione del credito. È vero anche che è stata una riscoperta questa delle popolari, forse nell'ultimo periodo. Ma è ancora, come dicevo prima, un modello che si differenzia. E tra l'altro questa democrazia azionaria che si realizza nelle assemblee, in cui ogni socio ha un voto, ecco che non rappresenta una sorta di ritualità che alla fine va a premiare i soliti noti. Ricordo il caso, per esempio, di una famosa assemblea di una banca popolare, l'allora Banca Popolare di Montebelluna. Nel 97 l'allora consiglio di amministrazione propose ai soci l'unione con l'allora San Paolo IMI. I soci bocciarono in assemblea, quindi fu un momento veramente di democrazia azionaria, bocciarono in assemblea questa proposta. Da allora la banca si è poi trasformata, è diventata Veneto Banca, è diventata a sua volta un polo aggregatore, quindi doveva diventare una preda e invece è stata una banca predatrice, con grande soddisfazione, sottolineo, dei suoi azionisti, perché negli ultimi 13 anni gli azionisti di Veneto Banca si sono portati a casa un rendimento del 10,6% annualizzato. Non so, anzi, è inutile dire non so, sicuramente non sarebbe andata così se quella banca, se gli azionisti di quella banca avessero conferito le loro azioni a Intesa, all'allora San Paolo, che poi si è fusa in Banca Intesa. Beh, esempi di democrazia che insomma sono stati anche sotto gli occhi di tutti. Ricordiamo che non più tardi di un anno fa, per la guida della Banca Popolare di Milano, Mazzotta e Ponsellini si scontrarono a colpi di video su YouTube addirittura, no Marco? Sì, e questo è un altro esempio di come si possa realizzare questo modello di partecipazione alla gestione. Certo, come dicevo prima, probabilmente ci sono degli aggiustamenti da fare. Per esempio, tu hai citato il caso della Banca Popolare di Milano. Lì c'è un problema di rappresentatività dei soci non dipendenti, degli investitori. È vero che gli investitori sanno, comprando le azioni di una banca popolare, che le regole del gioco sono diverse, ma è pur vero che bisogna tutelare anche i diritti, forse in misura maggiore di quanto accaduto fino ad oggi, di chi è socio ma non è dipendente. Ecco, ci sono altre banche popolari dove l'azionariato non è composto esclusivamente da soci dipendenti, ma c'è anche una maggiore rappresentatività dei vari, uso un termine purtroppo inglese, ma cercherò di spiegare, stakeholders, quindi i portatori di interessi, per esempio i clienti, no? Beh, i clienti hanno tutti i diritti di essere rappresentati nell'azionariato delle banche popolari, e questo è un modello che riesce a funzionare in alcuni di questi istituti. Oh, ricordiamo che non stiamo parlando di qualcosa di minuto nel mercato del credito, parliamo di 102 istituti, 555 miliardi di attivi, 83.000 dipendenti, 9 milioni di clienti e circa il 25% del mercato italiano del credito. Ci scrive un ascoltatore: se le popolari non sono quotate, a cosa servono le azioni? Esattamente a quello che si diceva, Marco. Ma a condividere il processo di creazione del valore all'interno di una banca. Il fatto di non essere quotate, allora, non significa che la determinazione del prezzo è arbitraria. Attenzione, occorre un sistema di vigilanza che sia attento, e qui dobbiamo ringraziare la Banca d'Italia che fino ad oggi ha fatto buona guardia. Il sistema di valutazione delle azioni non deve essere autoreferenziale, ma deve essere consapevole, deve essere frutto anche di perizie esterne qualificate. Ecco, questo processo di valutazione delle azioni che si verifica ogni anno, quindi i CDA propongono alle assemblee il valore, il nuovo valore delle azioni, il valore aggiornato delle azioni, ecco, è un processo che permette di smussare gli eccessi in positivo. Perché ricordo che nel 2007 le azioni delle banche popolari non quotate esprimevano dei multipli rispetto al patrimonio netto inferiori rispetto a quelli delle banche quotate, i cui multipli erano evidentemente pompati da situazioni di eccesso speculativo, quindi molti investitori che erano estremamente favorevoli nei confronti delle banche quotate, in primis chiaramente le banche ordinarie o le grandi global banks internazionali. Abbiamo visto poi che cosa è successo: da un eccesso in positivo si è passato a un eccesso in negativo. Ricordiamo dove erano finite le azioni di l'Unicredit nell'autunno del 2008, e allora invece noi abbiamo avuto le azioni delle banche popolari non quotate che di anno in anno hanno avuto degli aggiustamenti. Prima valevano di meno in termini di multipli sul patrimonio netto rispetto alla concorrenza quotata, adesso forse valgono un po' di più, ma in sostanza hanno smussato quegli eccessi tipici di un mercato azionario in cui non sempre gli interessi di tutti gli operatori coincidono. Ricordiamo il peso che hanno per esempio investment bank e hedge fund nel distorcere le strategie di alcune banche, nel senso che impongono ai manager di queste banche di continuare a produrre risultati trimestrali sempre più sfidanti, per usare un altro termine che piace molto a certi manager, e che però si traducono in un impoverimento di medio e lungo periodo delle banche stesse. Bene, ringraziamo intanto Marco Liera, responsabile di Plus 24, per essere stato con noi. Vi ricordo tra l'altro che moltissime cose le trovate, anche di indicazioni non solo per il pubblico non socio delle banche popolari, ma anche indicazioni per i soci delle banche popolari, e anche parecchie storie interessanti le trovate appunto in Plus 24 in edicola domani con Il Sole 24 Ore. Una sola battuta, Marco, finale. Riguarda la riforma delle banche popolari. Se ne è parlato tantissimo, lo stato dell'arte. che c'è molta resistenza, ma appunto noi continuiamo a seguirla sia su Plus che su Sole 24 Ore, consapevole del fatto che una gran parte degli azionisti delle banche popolari segue questo processo e vogliamo continuare a informarli. Grazie dunque a Marco Liera, appunto responsabile di Plus 24 del Sole 24 Ore. Noi ci risentiamo tra poco, subito dopo il giornale radio. Parleremo del G20 e della riforma finanziaria di Obama e parleremo anche di vendite al dettaglio. Le 18, 8 minuti, 45 secondi, bentornati a Focus Economia da Simone Spezia, le notizie in breve di questa giornata. Iniziamo dai mercati. In questo momento il Dow Jones guadagna lo 0,20%, lo Standard & Poor's lo 0,02%, è stata una chiusura complessivamente positiva anche in Europa. Il FTSE All Share a Milano ha guadagnato 0,5 punto percentuale, e così il FTSE MIB brilla su tutti i bulgari con un guadagno di quasi 7 punti percentuali. In calo ST Microelectronics del 5,19%. È positiva anche Eni sui dati della trimestrale. Chiude il primo trimestre con un utile netto pari a 1,82 miliardi di euro, con una crescita del 3,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e annuncia anche l'emissione di uno più prestiti obbligazionari per un ammontare complessivo fino a 3 miliardi di euro. Dati positivi anche dagli Stati Uniti, gli ordini di beni durevoli che hanno segnato un calo mensile dell'1,3%, ma al netto del settore trasporti hanno registrato un balzo del 2,8%, il maggior rialzo dal 2007. E ancora un positivo anche le vendite di case nuove, sempre in America, l'indice è salito del 27%, il maggior rialzo da aprile 63. Dati anche da Eurostat, gli ordini industriali in ripresa a febbraio nella zona euro con un aumento dell'1,5% rispetto al mese precedente, quando si era registrata una diminuzione dell'1,6%, però a trainare questa ripresa è stata l'Italia, dove gli ordini industriali a febbraio hanno subito un'impennata del 3,7%. Infine, il rapporto di Standard & Poor's sulle banche italiane vede 50 miliardi di perdite sui crediti in Italia tra il 2009 e il 2011, e però si attende le banche italiane profittevoli nel 2010 nel 2011. E ancora, Standard & Poor's ha tagliato i rating di Intesa, San Paolo e Mediobanca e confermato quelli di Unicredit, che infatti oggi in borsa ha tenuto un più 0,47%, Mediobanca più 0,27%, più 0,20%, Intesa San Paolo in calo dello 0,64%. E veniamo adesso al primo tema di questa seconda parte, il G20 e la riforma finanziaria americana. Allora, si è aperto il G20 dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali, filtra qualche indiscrezione, c'è concordia sul fatto che la ripresa economica è partita ma è ancora non omogenea tra i vari paesi, insomma questo molto più modestamente l'avevamo capito anche noi. Il G20 chiederà di mettere a punto delle misure per riequilibrare la crescita, ma senza riferirsi a specifici paesi. Secondo fonti vicine ai lavori, ministri finanziari e banchieri centrali non avrebbero trovato un accordo sulla tassa da applicare alle banche per coprire i costi della crisi in corso ed eventuali crisi future. Ma in realtà sul ruolo delle banche e appunto sulla riforma finanziaria chi si sta muovendo più velocemente di tutti naturalmente sono gli Stati Uniti. Ci sono le parole di ieri del presidente americano Barack Obama. Saluto Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Buonasera Mario. Buonasera, eccoci. Sono in realtà a Washington oggi. Oh, ok, sei a Washington. Proprio per seguire il G20, gli incontri del Fondo Monetario, ieri abbiamo avuto il G7, quindi siamo poi in una situazione in cui una serie di dossier aperti, dossier caldissimi che riguardavano lo scandalo Goldman Sachs, il discorso del Presidente Obama, la questione greca che continua a tormentare un po' tutti, ecco, convergono improvvisamente tutti questi dossier aperti e caldissimi oggi qui sulla capitale americana, dove il G20 dovrà affrontare un po' tutti questi dossier, e ti dirò che al di là della crescita e al di là di altre questioni con cui il G20 mette molta cosmesi nei suoi documenti, avremo un documento finale oggi pomeriggio, il tema dominante resta quello della riforma del sistema finanziario. Allora Mario, ti interrompo un attimo perché prima poi di fare una chiacchierata con te proprio su questo tema, ci sentiamo le parole del diretto interessato, insomma ieri ve ne abbiamo fatto sentire un accenno, Sebastiano Barisone ve ne ha fatto sentire un accenno, oggi abbiamo un quadro più completo delle parole pronunciate da Obama ieri, della volontà di imprimere una spinta particolare a questa riforma finanziaria. Ha parlato di fronte a un parterre di 700 manager, ha detto tra le altre cose credo nel libero mercato e ha auspicato una riforma bipartisan. That crisis was born of a failure of responsibility from Wall Street all the way to Washington. Questa crisi ha avuto origine da una mancanza di responsabilità a Wall Street come a Washington. Io credo nel potere del libero mercato, credo in un sistema finanziario forte che aiuti le persone a investire i propri risparmi, a ottenere prestiti. Ma un mercato libero non significa un mercato senza regolamentazione, dove si può prendere ciò che si vuole e a qualunque mezzo. Questo però è esattamente ciò che è successo negli ultimi 2 anni. Alcuni, non tutti, ma alcuni a Wall Street hanno dimenticato che dietro ogni dollaro, dietro ogni operazione rischiosa, ci sono famiglie che vogliono comprare casa o aprire un'impresa. Ciò che succede a Wall Street ha conseguenze sull'intera economia e per rifondarla, la riforma del settore finanziario è assolutamente essenziale. Wall Street reform is an absolutely essential part of that foundation. Beh, un po' di populismo, ma difficile dargli torto. 349-238-6666 per i vostri sms. Chiederemo un commento a Mario Platero subito dopo la viabilità. Ci scrive un ascoltatore, appunto, altro che populismo, ha ragione mille volte. Allora, Mario Platero, come è stato accolta questa impostazione del discorso di Obama? Ma è stata accolta direi bene, perché Barack Obama ha puntato soprattutto sul grande pubblico, sugli americani. La platea era fatta non soltanto di manager e banchieri, in realtà erano una minoranza, era anche fatta di gente comune e di molti membri, forse alcune centinaia erano membri di questo Cooper Union, che è un luogo storico dove hanno parlato in passato presidenti americani, dove parlò Lincoln pronunciando un discorso storico che poi lo lanciò verso la presidenza, e quindi ci ha tenuto la Casa Bianca a sottolineare che il discorso non era per i banchieri, che sanno benissimo cosa devono fare e come debbono farlo, ma il discorso era per gli americani, perché Obama sta cercando di raccogliere consensi attorno a sé per stringere un po' nell'angolo i repubblicani che resistono la riforma, la sua proposta di riforma, e dunque cerca di così metterli in una posizione difficile, perché è chiaro che l'opinione pubblica americana è risentita nei confronti di Wall Street, è risentita nei confronti di queste banche che hanno poi usato il denaro dei contribuenti per ripetersi in piedi, oggi sono tornate a macinare profitti straordinari, si pagano dei bonus altissimi e sul campo restano 8 milioni di disoccupati. Dunque i repubblicani all'inizio avevano attaccato l'amministrazione Obama per aver aiutato troppo queste banche, quindi si erano messi loro dalla parte dell'opinione pubblica. Oggi le parti rischiano di essere invertite e dunque Obama ha puntato sul populismo proprio per quello, ma c'è molta sostanza in quello che ha detto e direi che... Mario, abbiamo un altro spezzone di quel che ha detto Obama che possiamo far ascoltare, ed è quello nel quale riassume un pochino quali sono i punti fondamentali di questa riforma, così anche per fare un pochino di chiarezza sulla concretezza di questa riforma. I'm here to explain what reform will look like. Sono qui per spiegare come si compone la riforma. Il primo pilastro, proteggere il sistema finanziario, l'economia e i contribuenti dal rischio di nuove crisi e nel caso in cui una grande banca cominci a fallire. Abbiamo bisogno di un sistema che limiti al massimo i danni collaterali ai contribuenti e alle imprese. L'obiettivo è assicurare che a pagare non siano i contribuenti quando una banca è troppo grande per fallire. La riforma applicherà la cosiddetta norma Volcker, che pone limiti alla dimensione delle banche e dei rischi che possono assumersi. Secondo punto, la riforma porterà più trasparenza sui mercati, regolando e non abolendo l'uso dei derivati che innescarono la crisi dei subprime. Derivati che furono definiti da Warren Buffett armi finanziarie di distruzione di massa. Terzo, mettere in atto la massima protezione dei consumatori, facendo nascere un'agenzia che farà rispettare le regole e garantirà il flusso delle informazioni per chiunque. Quarto elemento della riforma, assegnare più potere agli azionisti su salari e bonus dei top manager, per evitare che si trasformino nei perversi incentivi che hanno contribuito alla crisi. Mario Platero, qualcosa mi dice a sentire le parole di prima e quelle di adesso di Obama sui quattro pilastri della riforma che questa riforma non avrà una gestazione complessa come quella della sanità? No, direi che le differenze con i repubblicani in questo momento sono abbastanza contenute, nonostante ieri il dibattito al Senato sia stato interrotto da Mitch McConnell, che è il capo della minoranza appunto al Senato, usando l'arma dell'ostruzionismo e facendo infuriare dunque Harry Reid, che invece è il capo della maggioranza. Ecco, dietro queste schermaglie, dietro queste liti che continuano a caratterizzare il dibattito, le parti stanno negoziando e stanno negoziando secondo me piuttosto rapidamente. Il mio pronostico è che noi avremo in tempi brevi una riforma, che avrà probabilmente voti dei repubblicani, perché i democratici sono pronti a cedere su uno dei punti del contenzioso, e cioè la creazione di un fondo da 50 miliardi di dollari per aiutare le banche in caso di crisi, cosa che i repubblicani non vogliono, mentre i democratici non sono pronti a cedere sull'Agenzia della Protezione dei Consumatori, che era poi il terzo punto menzionato da Obama nel discorso di ieri, e dunque saranno i repubblicani a dover fare delle concessioni su quel fronte. E dunque da questa piattaforma, una piattaforma che io chiamerei una piattaforma di lancio, ecco, qui a Washington il G20 dibatte, perché molti dei paesi membri del G20 sono indietro, e ti dirò che l'elemento dominante, era questo che stavo per dire prima, a queste riunioni in realtà è quello delle regole. Il resto è un po' cosmesi, le regole invece sono la vera partita e l'elemento in questo momento di maggior divisione all'interno del G20 riguarda l'idea di introdurre una tassa, cosa di cui naturalmente Barack Obama non ha parlato, ma sappiamo che c'è questa proposta di introdurre una tassa su certe attività delle banche, e le banche resistono, ma ti dirò, da fonti molto autorevoli ho saputo che non sono soltanto le banche a resistere, ma sono le autorità monetarie a resistere. Il sistema di banche centrali, la Banca Centrale Europea in particolare, ha dato dei messaggi molto chiari: sarebbe un errore introdurre queste tasse, una cosa è introdurre trasparenza, flessibilità, controllo e così via, così via. Un'altra cosa è introdurre delle tasse che inevitabilmente le banche poi farebbero ricadere sul consumatore con conseguenze negative per l'economia. Allora, ci sentiamo un altro brano del discorso di ieri di Obama, che ha esortato proprio le persone che citavi tu, insomma, le banche, a stare con lui e con il Congresso. Ascoltiamolo. Despite the furious effort of industry lobbyists to shape this legislation to their special interests. Nonostante i furiosi sforzi dei lobbisti dell'industria finanziaria per plasmare la riforma a loro vantaggio, e sono sicuro che quei lobbisti sono stati ben pagati per il loro lavoro, nonostante questo io sono qui perché voglio invitarvi a essere con noi invece di combattere contro di noi e contro la riforma. Io sono qui perché credo che non esista un confine che divide Wall Street e Main Street, e perché penso che questa riforma non sia solo nell'interesse del nostro paese, ma anche del vostro stesso settore. Mario, mi sembra interessante anche questa sfida che Obama lancia ai banchieri quando parla di, appunto, quando dice che non c'è differenza tra Main Street, ossia tra il popolo, e Wall Street, ossia il mondo della finanza. Questa riforma dice, dando più trasparenza e rendendo tutto più chiaro anche per i risparmiatori, aiuterà voi insieme al popolo americano. Sì, sicuramente è il taglio centrale del discorso di Obama. In realtà lui ai banchieri ha lanciato un ultimatum, si è presentato a loro in funzione e in rappresentanza non solo del popolo americano ma della nazione, e ha isolato il loro interesse specifico da una parte e quello della nazione dall'altra, li ha accusati di aver portato orde di lobbisti nella capitale, lobbisti che hanno travisato completamente la proposta di legge formulata dai democratici e dalla Casa Bianca, con l'obiettivo non di migliorarla, ma di seppellirla, parole molto dure, quindi quelle usate dal presidente americano, che ha quasi messo il settore bancario contro il paese. E il settore bancario, in effetti, queste cose le ha fatte, bisogna dirlo, il settore bancario resiste queste leggi che finirebbero per creare delle separazioni fra le attività di trading, per esempio, che sono quelle più rischiose, più speculative, e quelle di gestione di depositi dei risparmiatori, dei correntisti, delle attività normali della banca commerciale, che è una banca che deve raccogliere depositi per poi investirli, dare prestiti alle aziende in nome dello sviluppo e della crescita. Ebbene, è giusto che ci sia questa separazione, che poi era la separazione del Glass-Steagall-Act, ma le banche si accorgono che se questo succederà davvero, dovendo scegliere, rischiano comunque di perdere una gamba importante per le loro attività, perché l'enorme volume dei depositi gli consente di fare leva per poi le operazioni più speculative, che sono le più redditizie. E d'altra parte, se scegliessero solo le operazioni speculative più redditizie, avrebbero bisogno di enormi capitali e di rinunciare probabilmente ai depositi. Quindi la battaglia in corso è violenta, non è una battaglia così superficiale, ma è una battaglia che finirà per ridisegnare completamente il mondo della finanza così come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi, e aggiungo un minimo di ridisegno anche abbastanza incisivo sul piano della trasparenza, della separazione e dell'individuazione dei conflitti di interesse, secondo me è indispensabile e, aggiungo, secondo me avverrà. Grazie dunque a Mario Platero per averci aiutato anche a capire che aria tira Washington al G20 e come sta reagendo l'America alle parole di Obama di ieri, a questa nuova sfida che è la riforma finanziaria. Focus Economia termina qua, io ringrazio Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione, Paolo Colleoni in regia, un grazie naturalmente a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia, la trasmissione torna lunedì dopo il GR delle 17. Radio 24, la passione si sente.